sono in vena. Chi è là? Scusi. Una donna. Come faccio così? Che viso da malata. Si sente meglio? Sì. Qui c'è tanto freddo, segga vicino al fuoco, aspetti un po' di vino. Grazie. A lei. Poco, poco. Così. Grazie. Che bella bambina. Ora permetta che accenda il lume, tutto passato. Quanta fretta! Sì. Grazie. Buonasera. Buonasera. Oh, sventata, sventata, la chiave della stanza, dove l'ho lasciata. Non stia sull'uscio, il lune vacilla al vento. Ordino, torni ad accenderlo. Oddio, anche il mio si è spento. Oh, e la chiave ove sarà? Qui ho pesto. Disgraziato. Dove sarà? Cerco. Cerco.